di merda di pollo. Mi metti smermericcia. Mina, avresti bisogno di una pista tutta tua. Per il pantero un euro in più. Milano, Milano, Milano. Oh, le fai se ci provo una. Basta che scocci. Mi fai una compilation. Nuovo singolo degli Stardom. Musica è nigro. Rita media si è spassata. Dopo la sigla parte il fumo. C'hai il fumo, c'hai il fumo, c'hai il fumo. Sono 3 anni che ti dico di mettermi storm. Andrea Mattioli, orgoglio omosessuale. Almeno una consumazione, almeno una consumazione però. Metti il sistema down. Sto lavorando l'assito nuovo. Conti BPM, sei una cappella. Conti BPM, cappella. E basta questa musica vecchia, mettete glam metal. E basta che sono di concerti, perché non chiamate Colonaco? Cazzo sono gli Yes? Che offro io per la sfilata, se proprio non trovate nessuno? Bob Dylan ha inventato la chitarra elettrica. Poi, banale, ha capito come usarla. Il fenomeno musicale più importante degli anni 80 è stato l'Electro Flash. Il vero alternativo è che ascolta Vasco Rossi. Ho smesso con il dark perché non ho più 16 anni. Ora vado in rave. Che cazzo c'entri? Ma anche con il dark. Per caso, metti un po' di hard trance. Voglio la pista metal anche il lunedì a pranzo. Basta, al mamma non ci vado più. I metallari sono tutti fratelli. Nella pista metal sono il migliore. Non sbaglio mai un accordo. Il mio nickname contiene Dark Brot of Angel. Andiamo ad una saga. Scrivo poesie. Chissà